para no para la gringa, cabón para no para la gringa. Quiste la casa con jate gamanga, quiste la casa con jate gamanga. Con un patiga la tira la chinga, cabón. Mentolo parco me mocato, mentolo vedo come sta cito, mentolo parco me mocato, mentolo vedo come sta cito, caro compardo martellino.